E così rimasi sulla riva, solo, più simile che mai a un piccolo fox terrier. Ma dopo tutto sei stato tu a chiamarmi, tu a chiedermi di venire. Ah, che figura devo aver fatto a scodinzolare e saltarti intorno per tutto il giorno solo per essere lasciato così, mentre la nave si allontana, lenta e trasognata. Ah, questi maledetti inglesi. No, no, ma è veramente troppo, ma è troppo. Per chi mi ha preso? Una piccola guida a pagamento ai piaceri notturni di Parigi? No, no, monsieur, sono un giovane scrittore molto serio ed estremamente interessato alla letteratura inglese moderna e sono stato offeso, e offeso gravemente. 2 giorni dopo mi arrivò una sua lunga e simpatica lettera. Scritta in un francese un pochino troppo francese, mi diceva quanto gli mancavo e come contasse sulla nostra amicizia per rimanere in contatto. La lessi in piedi, davanti allo specchio dell'armadio, non pagato. Era mattina presto, avevo addosso un kimono blu, con ricamati sopra degli uccellini bianchi e i capelli ancora bagnati e lucidi mi spiovevano sulla fronte. Ritratto di Madama Butterfly, dissi, quando sente dell'arrivo de ce cher Pinkerton. A stare a quel che dicono i libri avrei dovuto provare un grande sollievo, un'immensa gioia. Raggiunta la finestra, aprì le tende e guardò gli alberi di Parigi, là fuori, ingemmati di tenero verde. Dick, Dick, il mio amico inglese. Io no. Provai solo un leggero senso di nausea. Era la prima volta che avevo fatto un volo in aeroplano e non avevo voglia di prenderlo di nuovo, non per il momento. Il tempo passò. E mesi dopo, in inverno, Dick mi scrisse che sarebbe tornato a Parigi per rimanerci a tempo indeterminato. Avevo voglia, per favore, di fissargli 2 stanze, avrebbe portato con sé un'amica. Certo che ne avevo voglia. Il piccolo Fox Terrier partì al volo. Era una circostanza quanto mai propizia, d'altra parte. Ero in debito di un sacco di soldi col ristorante dove andavo a mangiare e 2 inglesi che cercavano una sistemazione per un periodo di tempo indeterminato costituivano un acconto eccellente. Può essere che, mentre mi trovavo nella più grande delle 2 stanze con Madame, ripetendo «admirable», io mi sia chiesto come sarebbe stata l'amica, ma solo in modo vago. Sarebbe stata molto severa, piatta davanti e di dietro, oppure alta, bionda, vestita di verde, mignonette, e si sarebbe chiamata Daisy e avrebbe avuto addosso un dolciastro profumo di lavanda. Semplicemente, seguendo la mia regola di non guardare al passato, avevo quasi dimenticato Dick. Stonavo persino un po' l'aria di quella sua canzone sull'uomo sfortunato quando provavo a canticchiarla. Alla fine. Poco mancò che neanche riuscissi ad arrivare in tempo alla stazione. Avevo fatto in modo, e infatti c'ero riuscito, di vestirmi con particolare cura per l'occasione, perché questa volta avevo intenzione di cambiare sistema con Dick. Niente più confidenze e ciglia imperlate di lacrime. No, grazie. Da quando hai lasciato Parigi, gli dicevo, annodandomi la cravatta nera a pallini d'argento davanti allo specchio, anche quello non pagato, sopra il caminetto. Ho avuto molto successo, sai, ho altri 2 libri in preparazione e poi ho scritto un romanzo a puntate, Vietato l'ingresso, che sta per uscire, mi farà guadagnare un sacco di soldi e poi il mio libretto di poesie. Ho gridato afferrando la spazzola per abiti e spazzolando il colletto di velluto del mio nuovo soprabito blu indaco. Il mio libricino, Ombrelli smarriti, ha davvero suscitato, e così dicendo ridevo e agitavo la spazzola. Una straordinaria curiosità. Era impossibile non credere a quel tipo che si dava un'ultima occhiata dalla testa ai piedi, infilandosi i morbidi guanti grigi. Era tale e quale la parte che avevo scelto di interpretare, era la parte stessa. Questa cosa mi suggerì un'idea. Tirai fuori il mio taccuino e, ancora davanti allo specchio, buttai giù qualche appunto. Come si può essere simili a una parte e non essere quella medesima parte? O incarnare la parte e non essere simile per nulla ad essa. Forse che il sembrare non equivale all'essere, o l'essere al sembrare. Ad ogni modo, chi può dire che io non sia il ruolo che cerco di interpretare? Tutto mi parve allora straordinariamente profondo e assolutamente nuovo, ma confesso che mentre sorridendo posavo il taccuino, qualcosa mi sussurrava: tu, letterato, ma si assomiglia a uno che scommette alle corse. E però non gli diedi retta, me ne andai, chiudendo la porta dell'appartamento con un leggero Il rapido scatto per non avvertire la concierge della mia partenza e per lo stesso motivo scesi di corsa le scale, veloce come un coniglio. Ma, ahimè, il vecchio ragno fu più veloce di me, mi lasciò scendere fino all'ultimo filo della rete e mi si lanciò addosso. Un momento, un momentino, monsieur, sussurrò in tono terribilmente confidenziale. Entri, entri! E mi fece cenno con un mestolo gocciolante. Mi fermai sulla porta, ma non bastava, dovetti entrare dentro e la porta si richiuse prima che lei cominciasse a parlare. Ci sono due modi per gestire la concierge se non si hanno soldi. Uno è il metodo forte, strepitare, inimicarsela, rifiutarsi di discutere qualsiasi cosa. L'altro è quello di tenersela buona, ungerla di burro fino ai due nodi dello straccio nero che le lega le mascelle, fingere di confidarsi con lei e affidarsi a lei perché trovi un trucco con l'uomo del gas e per far aspettare il padrone di casa. Provai il secondo, ma entrambi sono ugualmente detestabili e inadeguati e comunque qualunque scelta sarà sempre la peggiore, la più impraticabile. Si trattava del padrone di casa questa volta. Ecco allora l'imitazione da parte della portinaia del padrone di casa che minaccia di sfrattarmi e poi ancora dell'imitazione della portinaia, ad opera della portinaia medesima, che cerca di domare il toro inferocito. Nuova imitazione del padrone di casa, arrogante, che allarga le narici in faccia alla portinaia e la portinaia ero io. No, era veramente troppo, troppo disgustoso. E per tutto il tempo la pentola nera sul fornello a gas che gorgogliava rischiando di cuocere in umido cuore e fegato degli inquilini. Ah! Gridai, fissando l'orologio sul caminetto e poi rendendomi conto che non funzionava, dandomi una manata sulla fronte come se l'idea non c'entrasse affatto. Madame, ho un appuntamento importantissimo con il direttore del mio giornale. Alle 9:30. Così forse domani potrò darle. Fuori, fuori e giù nel metrò, schiacciato in una carrozza piena. Più siamo e meglio è. Ogni corpo era uno strato in più interposto tra me e la portinaia. Ero raggiante. Ah, pardon, monsieur, disse l'alta e affascinante creatura in nero dal seno pieno, rotondo e ornato con un grande mazzo di violette. Il treno ondeggiava e il bouquet di fiori mi arrivava dritto negli occhi. Ah, pardon, monsieur. La guardai di sotto in su, sorridendo maliziosamente. Non c'è niente che più mi piace di più, madame, dei fiori su un balcone. Proprio mentre dicevo così, l'occhio mi cade sul gigantesco signore in pelliccia contro il quale si appoggiava la mia maliarda. Costui sporse la testa sopra la spalla di lei e diventò pallido fino al naso. Anzi, quel naso sporgeva in fuori come una specie di formaggino. Cosa hai detto a mia moglie? La gasse all'azar mi salvò. Ma ammetterete che persino all'autore di monete false, vietato l'ingresso e ombrelli smarriti e di altri due libri in preparazione, non fu troppo facile proseguire sulla via del trionfo. Alla fine, dopo che innumerevoli treni furono entrati sbuffando nella mia immaginazione e innumerevoli Dick Harmon mi furono venuti incontro beccheggiando, il vero treno arrivò. Il gruppetto di noi che aspettavamo all'uscita si mosse, si spinse all'assalto ed esplose in grida di gioia, come se fossimo una specie di mostro dalle molte teste, e Parigi dietro di noi nient'altro che una grande trappola preparata per acchiappare degli innocenti nel sonno. Una volta entrati nella trappola, venivano rapiti e portati via per essere divorati. Dov'era la mia preda? Buon Dio! Il mio sorriso si spense assieme alla mano che avevo sollevato. Per un terribile istante pensai che la donna della fotografia, la madre di Dick, mi stesse venendo incontro con il cappotto e il cappello di Dick. Nello sforzo, e si capiva che specie di sforzo fosse, di sorridere, le sue labbra erano atteggiate allo stesso modo e lui mi veniva incontro truce, fiero e selvaggio. Che cosa era successo? Cosa poteva averlo cambiato così? Devo raccontarlo? Lo aspettai, mi resi artefice persino di un paio di scodinzolamenti da Fox Terrier per provocare la sua reazione quando gli dissi: Buonasera, Dick, come va, vecchio mio? Tutto bene? Bene, benone. Gli mancava quasi il fiato. Hai trovato le stanze? Dio santissimo, adesso capivo tutto. La luce aveva infranto le acque scure e il mio marinaio non era annegato. Feci quasi una capriola per la gioia. Era nervosissimo, ovviamente, era imbarazzato, era la famosa serietà inglese. Come mi sarei divertito! Avrei voluto abbracciarlo. Sì, le stanze ci sono, risposi quasi gridando. Ma dov'è, madame? Si sta occupando delle valigie, ansimò. Eccola che arriva. Non poteva essere quella bambina che camminava accanto a un vecchio facchino, come se lui fosse stato la balia e l'avesse appena presa e sollevata da una brutta carrozzina per mettere i bagagli al posto suo. E non è madame? Disse Dick, strascicando all'improvviso le parole. In quel momento lei lo vide. E gli fece un cenno con il suo minuscolo manicotto. Si staccò dalla balia, disse qualcosa molto velocemente in inglese, ma lui le rispose in francese. Oh, va bene, ci penso io. Ma prima di rivolgersi al facchino, indicò me con un gesto vago e borbottò qualcosa. Ci aveva presentati. Lei mi tese la mano in quello strano modo da ragazzino che hanno le donne inglesi e dritta di fronte a me con il mento in fuori e sovranamente sforzandosi. Anche lei, di controllare la sua eccessiva eccitazione, disse, stringendomi troppo forte la mano: Sono sicura che non sapeva che fosse la mia. Je ne parle pas français. Sono certo che lo parla, invece, le risposi io, così tenero, così rassicurante, che avrei potuto essere un dentista in procinto di strapparle il suo primo dentino da latte. Certo che lo parla. Dick si girò di nuovo verso di noi. Senti un po'. Non possiamo prendere un taxi, una carrozza o qualcosa del genere. Mica vogliamo rimanere in questa maledetta stazione tutta la notte. Il tono era così scortese che mi ci volle un momento per riprendermi e lui dovette accorgersene perché mi mise un braccio intorno alla spalla alla vecchia maniera, dicendo: Ah, perdonami, caro, ma abbiamo fatto un viaggio così devastante, orrendo. Ci abbiamo messo un secolo per arrivare, non è vero? Si era rivolto a lei, ma lei non rispose. Chinò la testa. E cominciò ad accarezzarsi il manicotto grigio. Ci camminava accanto, continuando ad accarezzare il suo manicotto. Ho sbagliato, pensavo. È semplicemente un caso di impazienza frenetica da parte loro? Hanno semplicemente bisogno di un letto, come si suol dire? Hanno sofferto la tortura durante un viaggio, seduti, è possibile, molto vicini, al caldo, sotto la stessa coperta, e altre cose così, mentre l'autista legava il bagaglio con le cinghie. Fatto ciò, senti Dick, io vado a casa col metro, ecco l'indirizzo del vostro hotel, tutto è organizzato, vieni a trovarmi appena puoi. Com'è vero, iddio, pensai che sarebbe svenuto, persino le labbra gli si fecero bianche. Ma tu ci accompagni? Gridò, pensavo che fosse tutto sistemato, certo che ci accompagni, non vorrai mica lasciarci. No, ci rinunciai, era troppo difficile, troppo inglese per me. Ma certo, figurati, mi fa piacere. Ho solo pensato, forse. No, devi venire, disse Dick al piccolo Fox Terrier. E di nuovo si rivolse a lei con quel suo gesto impacciato. Entra, Mouse. Topo in inglese. E Topo entrò nella tana scura e si sedette accarezzando. Topo due, senza dire una parola. A scosse e balzelloni ci allontanammo, rombando come tre piccoli dadi con cui la vita abbia deciso di giocare. Avevo insistito per mettermi sullo strapontino di fronte a loro perché per niente al mondo avrei voluto perdermi le intermittenti istantanee e luminose che mi si offrivano ogni volta che dal buio entravamo nei bianchi cerchi di luce dei fanali. Mi rivelavano Dick sprofondato nel cantuccio del suo sedile, il bavero del cappotto alzato, le mani infilate nelle tasche e l'ampio cappello scuro che lo riparava come fosse stato una parte di lui, una specie di ala sotto cui si nascondeva e mi mostrava lei seduta bella dritta con quel suo bel visino più simile a un disegno che a un viso reale, ogni linea così piena di significato, così finemente intagliato contro la fluttuante oscurità. Perché Mouse era bella, era deliziosa, ma così fragile e sottile che ogni volta che la guardavo era come se fosse la prima volta. A vederla dava quella specie di emozione che si prova quando avendo bevuto del tè da una innocente tazza di sottile porcellana, si scorge in fondo all'improvviso una piccola creatura, metà farfalla, metà donna, che ci fa una riverenza con le mani infilate nelle maniche. Per quanto potevo vedere, aveva i capelli scuri e gli occhi azzurri o neri, le lunghe ciglia e le due piumette disegnate sopra avevano un valore tutto proprio. Aveva addosso un lungo mantello scuro, come se ne vedono nei vecchi figurini delle inglesi all'estero, da dove uscivano le braccia. C'era della pelliccia grigia, pelliccia anche intorno al collo, e il berretto che le aderiva alla testa era pure lui di pelliccia. È proprio decisa a rendere l'idea del topo, conclusi. Ah, ma com'era intrigante la faccenda, com'era intrigante! Sempre di più la loro eccitazione si andava impadronendo di me e io le correvo incontro. Mi ci tuffavo e mi spingevo al largo finché alla fine non facevo meno fatica di loro a tenerle testa. Ma quello che io volevo era comportarmi nel modo più stravagante, più da pagliaccio possibile, cominciare a cantare con grandi gesti melodrammatici. Puntare l'indice fuori dal finestrino e gridare: Signore e signori, stiamo ora passando davanti a uno di quei punti panoramici per cui Notre Paris è giustamente famosa. Saltare giù dal taxi mentre era in moto, arrampicarmi sul tetto e rientrare da un altro sportello, stare affacciato al finestrino e attraverso l'estremità sbagliata di un telescopio rotto, che era anche una tromba particolarmente assordante, scrutare l'orizzonte in cerca dell'albergo. Mi vedevo fare tutto questo, capite? E riuscivo anche ad applaudirmi in privato, giungendo dolcemente le mie mani guantate mentre dicevo a Maus: È la prima volta che viene a Parigi? Oh sì, non c'ero mai stata. Ah, allora ne avrà di cose da vedere. E stavo appunto per accennare ai monumenti e ai musei quando con una brusca frenata la vettura si fermò. È del tutto assurdo, sapete? Eppure mentre aprivo loro la porta e li seguivo su per le scale che portavano al bureau sul pianerottolo, mi sentivo un po' il proprietario di quell'albergo. C'era un vaso di fiori sul davanzale della finestra del bureau. Arrivai al punto di risistemare un bocciolo o due per poi allontanarmi e vedere l'effetto, mentre la direttrice li accoglieva. E quando si voltò verso di me per consegnarmi le chiavi, il garçon stava portando sulle valigie, dicendo: Monsieur Duquette vi mostrerà le vostre stanze. Mi venne una gran voglia di dare a Dico un colpo sul braccio con una chiave e dirgli in tono squisitamente confidenziale: Mio caro, come vecchio conoscente, sono più che disposto a farti un piccolo sconto. Salimmo su e poi ancora su, girando in tondo. Oltrepassammo qualche paio di scarpe, ma perché non si vede mai un bel paio di scarpe fuori da una porta? E sempre più in alto. Ho paura che siano un po' troppo in alto, mormorai stupidamente, ma le ho scelte perché era così evidente che non gliene importava nulla del perché le avessi scelte che non andai oltre. E gli andava bene tutto, non si aspettavano niente di diverso. Questa era solo una parte della loro esperienza, almeno questo pensai. Ci siamo finalmente. Correvo da una parte all'altra del corridoio, accendendo le luci, dando spiegazioni. Questa l'avevo destinata a Tedic e l'altra è più grande e ha un piccolo spogliatoio nell'alcova. Il mio occhio di proprietario, tra virgolette, notò gli asciugamani candidi come le coperte, la biancheria da letto ricamata in cotone rosso. Mi erano sembrate stanze abbastanza fascinose, con le pareti mansardate, piene di angoli, proprio il tipo di stanze che chi non è mai stato a Parigi si aspetta di trovare. Dick gettò il cappello sul letto. Non dovrei dare una mano al tipo delle valigie? Chiese. A nessuno. Sì, certo, rispose Maus, sono terribilmente pesanti. Si rivolse a me con un primo barlume di sorriso. I libri, sa? Oh, che strano sguardo le lanciò a lui prima di precipitarsi fuori. E non soltanto lo aiutò, ma probabilmente tirò giù troppo di corsa le valigie dalla schiena del garçon. Perché ne portò dentro una barcollando all'indietro e la lasciò cadere e poi andò a prendere l'altra. Questa è la tua, Dick, disse lei. Beh, non ti dispiace se per adesso la lascio qui, vero? Chiese lui ansimando senza fiato. La valigia doveva essere davvero molto pesante. Tirò fuori una manciata di monete. Sarà meglio che lo paghi ora. Il garçon in attesa sembrava pensarla proprio come lui. Avete bisogno di altro, monsieur? No, no, rispose Dick con impazienza. Ma a quel punto si fece avanti Maus e con quel suo strano accento spezzettato inglese, senza guardare in faccia Dick, disse assertivamente: Sì, vorrei del tè, tè per 3 persone. E sollevò all'improvviso il manicotto come se le mani dentro fossero state intrecciate. Poi, quasi come per avvertire con quel gesto il pallido e sudato garçon che lei era allo stremo delle sue risorse, gli gridò di salvarla con te, subito. Benché non me lo fossi proprio immaginato, quel gesto e quel grido mi parvero così sorprendentemente identici a ciò che uno si potrebbe aspettare da una donna inglese, davanti a una grave crisi che manco poco non mi intromisi per protestare. No, dai, davvero, basta, fermiamoci qui, alla parola a te, perché davvero, senza esagerare, davvero lei ha offerto al più esigente dei suoi lettori un piatto così ricco che scoppierà se deve ingoiare anche una sola altra parola. Perfino Dick ne fu scosso. Come emergendo da un prolungato stato di incoscienza, si voltò lentamente verso Mouse e le rivolse uno sguardo dolente, stanco. Poi mormorò, con l'eco della sua voce trasognata: «Sì, una buona idea. E poi, devi essere stanca, Topolina. Mettiti a sedere». Mentre la Topolina si sedeva in una poltrona coi braccioli ricoperti di pizzo, lui si appoggiò al letto e io mi sistemai su una sedia con lo schienale dritto. Accavallai le gambe e mi tolsi un po' di polvere immaginaria dalle ginocchia dei pantaloni. Il parigino, a suo agio. Ci fu una breve pausa. Poi Dick chiese: «Non vuoi toglierti il cappotto, Topolina?» «No, grazie, per ora no». «Mi avrebbe chiesto qualcosa? O avrei dovuto alzare io la mano e gridare con voce infantile: "Adesso posso essere interrogato io?" No, non era il caso. Non mi chiesero nulla. La pausa diventò silenzio, un vero e proprio silenzio. «Avanti, mio Fox terrier parigino, divertiti un po' con questi tristi inglesi. Non c'è da stupirsi che siano tutti innamorati dei cani». Ma dopo tutto, perché divertirli? Non erano affari miei, come avrebbero detto loro. Ciononostante, spiccai un piccolo salto vivace verso la topolina. Che peccato che lei non sia arrivata con la luce del giorno. C'è una vista così affascinante da queste due finestre. Sa, l'hotel è su un angolo e ogni finestra guarda su una via lunga, lunga e dritta, dritta. Sì, disse lei. Non che la mia descrizione suoni come molto allettante, mi misi a ridere. Oh, ma c'è una tale animazione, così tanti ragazzini in bicicletta e sono così cinematografici da non poterli neanche immaginare. E tanta gente affacciata alle finestre. Oh, beh, vedrà lei stessa domattina. Tutto molto divertente, molto animato, ecco. Oh, sì, disse lei. Se in quel momento non fosse entrato il pallido, sudato garçon, reggendo alto su una mano il vassoio del tè, come se le tazze fossero palle di cannone e lui un sollevatore di pesi da cinema, riuscì ad abbassarlo su un tavolinetto rotondo. «Porti qui il tavolino», disse Maus. Sembrava che il cameriere fosse l'unica persona con cui le interessava parlare. Tolse le mani dal manicotto, si tolse i guanti e fece scivolare indietro, indietro la sua mantellina fuori moda. «Prende latte e zucchero?» «Oh, niente latte, grazie, niente zucchero». Mi alzai per andare a prendere la mia tazza come un piccolo gentleman. Lei ne riempì un'altra. «Questa è per Dick». E il fido Fox Terrier gliela portò e gliela depose, per così dire, ai piedi. «Oh, grazie», disse Dick. Poi me ne tornai alla mia sedia e lei sprofondò ancora nella sua poltrona. Ma Dick era di nuovo lontano. Fissò per un momento la tazza di tè, si guardò intorno, la posò sul comodino, prese il cappello e balbettò velocemente: «A proposito, ti dispiace impostarmi una lettera? Voglio che parta con la posta di stasera. Devo assolutamente. È molto urgente». Sentendosi addosso gli occhi di lei, buttò là: «È per mia madre. E a me. Non ci metterò molto a scriverla. Ho tutto quello che mi serve. Ma deve partire entro stasera. Ti dispiace? Non ci vorrà molto». «Ma certo che te l'ha imposto, figurati, con piacere». «Non vuoi bere il tè prima?» suggerì Mouse con voce gradevole. «Tè? Tè? Oh sì, ma certo, naturalmente, tè. Una tazza di tè poggiata sul comodino». Nel suo sogno affannoso illuminò del più gradevole e affascinante sorriso la sua piccola ospite. «No, grazie, per ora no». E continuando a dire che sperava la cosa non mi avrebbe recato troppo disturbo, uscì dalla stanza e chiuse la porta. Lo sentimmo attraversare il corridoio. Mi scottai bevendo il tè per la fretta di rimettere la tazza sul tavolino e di dire alla Topolina: «Mi deve perdonare se posso sembrarle impertinente, se sono troppo franco. Ma Dick non sta cercando di fingere, non le pare? C'è qualcosa che non va. Posso aiutare?» Musica sommessa, La topolina si alza, passeggia per un momento sul palcoscenico prima di ritornare alla sua poltrona e poi gli versa, oh, una tazza così colma, così bollente, che all'amico vengono le lacrime agli occhi mentre lo beve, mentre lo inghiotte fino all'amara feccia. Tutto ciò ebbe il tempo di compiersi prima che mi rispondesse. Dapprima guardò nella teiera, la riempì ancora di acqua calda e la mescolò di nuovo con un cucchiaino. Sì, c'è qualcosa che non va. No, temo che lei non possa essere d'aiuto, grazie. Mi spuntò di nuovo quella specie di sorriso. Mi dispiace davvero moltissimo. Deve essere orribile per lei. Orribile, davvero? Ah, perché non poterle dire che erano mesi e mesi che non mi divertivo così tanto. Ma lei soffre, azzardai piano, come se fosse proprio quello lo spettacolo che non potevo sopportare. Non lo negò. Annuì, si morse il labbro inferiore e mi parve di vederle tremare il mento. Oh, e non c'è davvero niente che io possa fare? Domandai ancora più a bassa voce. Scosse la testa, spinse indietro il tavolino e si alzò in piedi di scatto. Oh, presto sarà passato, sospirò avvicinandosi alla toilette e volgendomi la schiena. Passerà, non può andare avanti così. Ma certo che non può, ne convenni mentre pensavo se mi avrebbe o no fatto sembrare un mostro senza cuore il fatto di accendermi una sigaretta. Mi era venuta una voglia improvvisa di fumare. In qualche modo. Dovette accorgersi della mia mano sul taschino che estraeva a metà il portasigarette e lo rimetteva a posto perché quello che disse dopo fu fiammiferi sul candeliere, li ho visti. E dalla voce mi resi conto che stava piangendo. Ah, grazie, sì, li ho trovati. Accesi la sigaretta e mi misi a camminare su e giù fumando. Era tutto così silenzioso che avrebbero potuto essere le 2 del mattino. Era tutto così silenzioso che si sentivano scricchiolare e crepitare le assi del pavimento, come succede nelle case di campagna. Fumai tutta la mia sigaretta e spensi il mozzicone nel piattino prima che la topolina si voltasse e tornasse al tavolo. Non le pare che Dick ci metta troppo tempo? Lei è molto stanca. Immagino che avrà voglia di andare a letto. Dissi gentilmente, e la prego non si preoccupi per me se decide di sì, soggiunsi mentalmente. Ma non le pare che ci metta troppo? Insiste lei. Eh sì, abbastanza, risposi sollevando appena appena le spalle. Poi notai che mi guardava in modo strano, stava ascoltando qualcosa. Se n'è andato, da secoli, disse, e mosse a piccoli passi verso la porta. L'aprì e attraversò il corridoio diretta alla stanza di lui. Aspettai, ascoltai anch'io a quel punto. Non avrei sopportato di perdere una sola parola. Mouse aveva lasciato la porta aperta. Attraversai silenziosamente la stanza e andai a cercarla. Anche la porta della camera di Dick era aperta. Ma non volevo perdere una sola parola. Sapete, mi attraversò la mente l'idea folle che si stessero baciando in quella stanza silenziosa. Un comodo, lungo bacio, uno di quei baci che non solo mettono a letto il dolore, ma lo cullano, lo riscaldano, gli rimboccano le coperte e lo tengono ben stretto finché non dorme profondamente. Ah, come fanno bene quei baci! Ecco, avevano finito finalmente. Sentii qualcuno che si muoveva e si allontanava in punta di piedi. Era Mouse. Tornava indietro, si fece strada a tentoni nella stanza portandomi la lettera, ma non era in una busta. Era solo un foglio di carta e lei lo teneva per un angolo come se fosse ancora bagnato. Teneva la testa così china, così affondata nel bavero di pelo che non mi resi conto di nulla finché non lasciò cadere il foglio e per poco non cadde lei stessa sul pavimento, accanto al letto contro cui appoggiò la guancia e aprì le braccia. Come se anche l'ultima delle sue povere piccole armi fosse spuntata e ora lei si lasciasse trasportare giù nell'acqua profonda. Veloce, mi venne un'idea. Dick si era sparato. E poi una serie di flash al lampo di magnesio. Io mi precipitavo dentro, vedevo il corpo, la testa era intatta, a parte un forellino blu sopra la tempia. Sveglio l'albergo, organizzo il funerale, seguo il corteo, vettura chiusa, nuovo abito da mattina. Mi chinai a raccattare il foglio. E lo credereste? così radicato è in me quel senso parigino di comme il faut, e mormorai pardon prima di leggerlo. Topina, mia Topolina. È inutile, è impossibile, non vedo via d'uscita. Io ti amo, sì, ti amo, Maus, ma non posso farle del male. Le hanno fatto del male per tutta la vita, semplicemente io non ho il coraggio di darle questo colpo finale. Vedi, benché sia più forte di noi due, è così fragile e orgogliosa, la ucciderebbe, capisci, Maus? Io, oddio, non posso uccidere mia madre, nemmeno per te, nemmeno per noi. Lo capisci anche tu, non è vero? Sembrava tutto così facile quando abbiamo parlato e pianificato, ma nel momento stesso in cui il treno si è messo in moto, ho capito che era finita. La sentivo che mi tirava indietro, chiamandomi. La sento anche ora mentre scrivo, e lei è sola e non lo sa. Bisognerebbe essere un demonio per dirglielo. Io non sono un demonio, Maus. Non deve saperlo. Oh, Maus, non sei d'accordo anche tu, in fondo? È tutto così indicibilmente orribile che non so neppure io se voglio andarmene o no. Sono io che lo voglio. O è la mamma che mi sta trascinando? Non lo so. La mia testa è troppo stanca. Maus, Maus, cosa farai? Ma non posso pensarci, non posso. Crollerei e non devo abbattermi. Tutto ciò che mi resta da fare è dirtelo e andarmene. Non potevo andarmene senza dirtelo. Ti saresti spaventata e tu non ti devi spaventare. Vero che non avrai paura? Non posso sopportare. Ma basta. E non scrivermi, non avrei il coraggio di rispondere alle tue lettere e di riconoscere quella tua calligrafia a zampa di ragno. Perdonami, non amarmi più. Oh sì, invece, amami, amami. Che ve ne pare? Non è un bel tiro? Il mio sollievo per il fatto che non si fosse sparato si mescolò a un meraviglioso senso di euforia. Eravamo pari, più che pari, io e il mio inglese del molto strano e interessante. Maus piangeva in un modo così particolare, con gli occhi chiusi, coi lineamenti immobili, tranne che per le palpebre tremanti. Le lacrime le rigavano le guance e lei le lasciava cadere. Ma sentendosi addosso il mio sguardo, aprì gli occhi e mi vide con in mano la lettera. L'ha letta! La sua voce era abbastanza calma, ma non era più la sua. Era come la voce che ci si può immaginare di sentire uscire da una minuscola, fredda conchiglietta che la marea salata alla fine ha gettato ad asciugare su una spiaggia. Feci cenno di sì, molto commosso, si capisce, e posai la lettera. Incredibile, incredibile, bisbigliai. Allora lei si alzò da terra, si avvicinò al lavamano, intinse il fazzoletto nella brocca e se lo passò sugli occhi, dicendo: Oh no, non è affatto incredibile. E continuando a premersi il fazzoletto bagnato e ridotto a una palla sugli occhi, tornò verso di me, alla sua poltrona coi poggiamano di pizzo, e vi si sprofondò. L'ho sempre saputo, certo, disse la vocina fredda e salata. Dal momento in cui abbiamo iniziato, me lo sentivo, ma continuavo ancora a sperare. E qui abbassò il fazzoletto e mi diede un ultimo veloce sorriso. Come si fa sempre stupidamente, mi capisce? Come si fa? Silenzio. Ma che farà ora? Vuol ripartire, lo raggiunge? A queste domande si mise seduta e mi guardò. Veramente un'idea straordinaria, disse, più fredda che mai. Naturalmente di vederlo non me lo sogno neanche, e per quanto riguarda il ritorno non se ne parla proprio, non posso tornare. Ma, oh, è impossibile. Tanto per cominciare, tutti i miei amici pensano che io sia sposata. Tesi la mano. Ah, mia povera piccola amica. Ma lei si ritrasse subito, mossa sbagliata. Naturalmente c'era una domanda che mi assillava da quando era arrivata, ma era odiosa. Ha dei soldi? Sì, ho 20 sterline qui. E si mise una mano sul petto. Mi inchinai, era molto più di quanto mi aspettassi. E che cosa pensa di fare? Sì, lo so, era la domanda più goffa, più idiota che si potesse fare. Era stata così docile, così confidenziale, permettendomi, almeno spiritualmente parlando, di tenere con una mano il suo minuscolo corpo tremante e di accarezzare con l'altra la sua testa impellicciata. Io l'avevo spinta via. Oh, mi sarei preso a calci. Si alzò. Non ho programmi, ma è molto tardi. Deve andare ora, per favore. Come fare a riprenderla? Volevo riprenderla, giuro che non recitavo allora. Mi consideri suo amico, esclamai. Mi permetterà di venire domattina? Mi permetterà di badare un poco a lei, di prendermi un po' cura di lei, disporrà di me come vorrà? Andò bene. Venne un pochino fuori dalla sua tana, tutta timida, ma venne fuori. Oh, sì, lei è molto gentile, sì, venga domani mattina, mi farà piacere. La mia situazione è un po' difficile perché... E di nuovo strinsi la sua mano di ragazzino. Je ne parle pas français. Solo dopo aver percorso metà del boulevard, mi resi conto della tremenda gravità di ciò che era accaduto. Ma allora quei due stavano soffrendo, quei due soffrivano veramente. Avevo visto due persone soffrire come credo non ne vedrò mai più. E intanto, buonanotte, gattina mia, dissi impudentemente alla vecchia e grassa prostituta che tornava a casa attraverso la fanghiglia, ma non le diedi il tempo di rispondere. Naturalmente sapete cosa aspettarvi, anticipate perfettamente quello che sto per scrivere, altrimenti non sarei io, altrimenti a quell'albergo non mi avvicinai nemmeno, mai più. Sì, ho ancora quel grosso debito per i miei pranzi e le mie cene, ma questo non c'entra, è volgare parlarne mentre sto per dire che non rividi mai più Mouse, mai più. Naturalmente avevo intenzione di farlo, mi avviavo, arrivavo alla porta, scrivevo lettere che poi stracciavo, ho fatto tutte queste cose, ma semplicemente non sono stato capace di fare lo sforzo finale. Neanche adesso riesco a capire realmente il motivo. Naturalmente sapevo che non ce l'avrei fatta e questa cosa aveva una parte importante, ma ci si sarebbe aspettati quantomeno che la curiosità non avrebbe evitato al mio naso da Fox Terrier di... Je ne parle pas français. Quello per me fu il suo canto del cigno. Eccola, che mi fa infrangere la mia regola. Oh, ve ne sarete già accorti, ma potrei fare altri mille esempi. Certe sere, seduto in un caffè buio, mentre una pianola attacca a suonare una melodia a base di Topina, ci sono decine di brani che fanno pensare a lei. Comincio a sognare cose come... Una casetta in riva al mare, da qualche parte, molto, molto lontano, sulla soglia una ragazza con un abito simile a quello delle indiane pelirossa saluta un ragazzo che arriva di corsa, leggero, dalla spiaggia, a piedi nudi. Che cos'hai lì? Un pesce? Sorrido e glielo passo. La stessa ragazza, lo stesso ragazzo, con costumi diversi, seduti davanti a una finestra aperta, mangiando frutta, si affacciano e ridono. Tutte le fragoline selvatiche sono per te, Maus. Non ne toccherò neppure una. Una notte di pioggia. Stanno andando a casa insieme sotto un ombrello. Si fermano sulla porta per premere una contro l'altra le loro guance bagnate. E così via, finché qualche vecchio sporco libertino si avvicina al mio tavolo, mi si siede di fronte e comincia a fare smorfie, a guaire. Ed è allora che mi sento dire... Ho io la bambina che fa per te, mon vieux, piccina piccina, così, minuta minuta e vergine. Poi mi bacio la punta delle dita, una vergine, e me le poso sul cuore. Ti do la mia parola d'onore di gentiluomo e di scrittore serio, giovane ed estremamente interessato alla letteratura inglese moderna. Devo andare, prendo il cappotto e il cappello. Madame mi conosce? Non avete ancora cenato? Sorride. No, non ancora, signora. Mi piacerebbe cenare con lei, anche andare a letto con lei dopo. Dovrebbe essere così pallida anche nel resto del corpo, ma no, avrà dei grandi nei, si adattano a quel tipo di pelle e io non li sopporto, mi ricordano in qualche modo, in modo disgustoso, un certo tipo di funghi. Postfazione. Il racconto appena letto uscì in versione integrale, quella che avete ascoltato, per la prima volta nel 1919 con la Heron Press del marito di Catherine Mansfield, John Murray. A Catherine era stata diagnosticata la tubercolosi 2 anni prima e di recente aveva avuto un aggravamento. La sua vita era difficile e lei viveva una perenne disillusione sia nel rapporto col marito, arido e fatuo, incapace di comprenderla, sia per il fatto che le cure mediche non funzionavano. Sappiamo che Catherine lasciò il corpo giovane, 4 anni dopo la pubblicazione di questo racconto, nel quale esprime la sua pena nell'osservare un'umanità imbruttita, dolente, al peggio di sé. L'unica anima gentile che le stava vicina e si prendeva cura di lei durante le crisi, senza continuamente farla sentire sotto pressione, era la sua amica Ida Baker. Come abbiamo già raccontato nella presentazione dei racconti, di cui lasciamo il link in descrizione, Catherine alla fine decise di abbandonare le cure mediche e di ritirarsi a Versailles, nella comunità spirituale di Gurdjieff, dove lasciò il corpo a 34 anni. In quel breve periodo, che coprì la sua incredibile attività artistica, Catherine divenne l'unica scrittrice che Virginia Woolf sentì di poter mettere al suo livello, pubblicandola con la sua casa editrice, la Hogarth Press. Come abbiamo già detto, infatti, nella nostra presentazione, se Virginia Woolf inventò la scrittura femminile, Catherine Mansfield la perfezionò. Avrete notato, ascoltando questo masterpiece, che Catherine vi descrive, potremmo dire, due brutte persone di sesso maschile, il cinico tronfio francese che si spaccia per scrittore ma è solo un gigolò, e il codardo piccolo inglese che non sa staccarsi dalla mamma. Non sapremmo dire se fosse intenzionale il fatto che l'inglese si chiama Dick, ovvero la stessa parola che gli anglofoni usano per indicare volgarmente il fallo maschile. In mezzo a questi due orrendi uomini e al resto dei personaggi sinistri che si muovono nel racconto, l'unica figura dignitosa è la piccola donna inglese, forse la nemesi della stessa Catherine, che spera fino all'ultimo invano di poter cambiare le cose, anche se la sua voce interiore le sussurra che è tutto inutile. L'ho sempre saputo, certo, fa dire alla piccola donna abbandonata, dal momento in cui abbiamo iniziato. Me lo sentivo, ma continuavo ancora a sperare, come si fa sempre, stupidamente. Catherine, donna emancipata e libera nel suo breve passaggio terreno, fu, con le sue scelte di vita, inconsapevole portabandiera dei diritti delle donne. E qui, verso la fine dei suoi giorni, ancora una volta, ce ne offre una prova. Lo squallore degli uomini del racconto è talmente evidente che lo stesso Murray, suo marito e editore della prima versione integrale, fu d'accordo con l'editore Constable e Co. nello stralciare il finale nella raccolta pubblicata l'anno seguente, finale che noi invece abbiamo letto. L'esasperato disprezzo che il francese esprime nei confronti di una donna alla quale non gli ha fatto nulla nel dire avrà dei grandinei, si adattano a quel tipo di pelle e io non li sopporto. Mi ricordano in qualche modo, in modo disgustoso, un certo tipo di funghi. Così profonda la sua disillusione da farci quasi credere che proprio come Virginia qualche anno dopo, anche Catherine si sia lasciata morire per non dover più vedere.